Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Siamo in diretta su Risto Radio Convento, di nuovo benvenuti da Master Nick. Questo è sabato 10 di novembre del 2018, precisamente a 1:29 minuti, e come sapete ospitiamo tutti i festeggiati, tutti coloro che avessero voglia di venire qui. E c'è una sposa in particolare che questa sera ha veramente dato un tocco di colore alla nostra serata, non solo per la loro simpatia, bellezza e tante bellissime cose, ma soprattutto perché sono tutte vestite di rosa, tipo tra confetti e Barbie, e si sono fatte assolutamente notare, e adesso scopriremo di più, e intanto andiamo a conoscere la protagonista, la nostra sposa. Benvenuta. Ciao a tutti, sono Michela. Michela, che prima di salutare le amiche, salutiamo la voce di Michela che è rimasta all'ingresso e non ha voluto seguirla in questa serata. Ha detto: sai cos'è, fai un po' tu, perché stasera io non ti voglio aiutare. No, vabbè, vai bene così, vai bene così. Sì, così rimani anche un po' più, come dire, in incognito. Dove vieni, Michela? Da Rivoli Veronese, non è più in incognito. Non è più in incognito, anche perché, esatto. Quanti? 800? Piccolino. E Michela, dici un po' dalle tue labbra, giusto che escano le parole più importanti, cioè cosa festeggi con noi questa sera? Il mio addio annubilato. Oh, che bello il tuo addio annubilato. Brave ragazze. Brave, sì, anche perché hanno fatto delle cose davvero carine e davvero interessanti. E a proposito di amiche, dai, fai un po' gli onori di casa, raccontaci chi è qui con te. La mia testimone, la Silvia. Ah. La Caterina. E la mia damigella, la Lucia. La damigella Lucia. E poi aspetta, non solo. Bloccata fuori. Bloccata nel traffico perché ha trovato coda all'ora di punta. C'è la Laura che ci guarda malissimo. E noi la facciamo guardare malissimo. Siete solo voi? C'è qualcun altro? No. Ma siamo rimaste solo noi. Rimaste. Sono andata a casa. Non hanno più l'età. Non resistono più a questi ritmi. E volevo parlare un attimo con lei, un attimo, se ti trasferisci al microfono, perché lei è una delle... No, eri tu, giusto? L'ideatrice? È lei, giusto? Mi ricordo bene? Sì. Lei è l'ideatrice, visto che io ho parlato di colori, ho parlato di rosa, ho parlato che vi siete fatte notare, direi che è anche giusto aiutare i nostri ascoltatori dicendo che cosa vi ha caratterizzato questa sera. Esatto. A parte la vostra bellezza e la bellezza di Michela. Soprattutto la bellezza di Michela, ovviamente. Ride? C'è dell'ironia in questa frase, sento ironia? Una puntina. Allora, è stato il nostro logo che praticamente abbiamo ideato usando le iniziali degli sposi, Manuel e Michela, quindi M&M's. Quindi c'è Michela che ha un seno molto importante. Diciamo che io non volevo arrivare a quel punto lì, però ci sono vari motivi per cui ci sono fatte notare. Uno di questi è che diciamo che Michela, per usare un eufemismo, non rimarrà mai senza fiato. Ecco, diciamo che ha una buona capacità respiratoria per essere eleganti. Non se n'era accorto nessuno adesso. No, non se n'era accorto nessuno. In radio non lo sanno. Esatto, non lo sanno, non lo sanno. Allora, immaginate due seni enormi con sopra tutti i confetti M&M's, quindi ecco. Non avete mai visto un M&M's così grande. Esatto, voi tra l'altro immaginate la difficoltà della mia posizione in questo momento, perché voi lo state immaginando, io invece li ho tipo a 40 cm di distanza, li sto anche vedendo, ed è comunque difficile portare avanti professionalmente questa intervista e questa il nostro lavoro, insomma. Però noi rimaniamo ligi al nostro dovere, responsabili fino in fondo. E poi diciamo, colore rosa, immagino il motivo, o c'è un motivo particolare? Non si può dire, no. Vabbè, dai, allora per voi che non sarete al matrimonio, è il colore del matrimonio. Ah, il tema, c'è ancora questa usanza del tema. Il tema che suona a me. Non possiamo... Avete tematizzato il matrimonio per caso? Sarebbe? L'albero della vita. L'albero della vita. Con Expo. Con grigio, l'argento e il rosso. E come mai? Come e come mai? Che è un tema particolarissimo. Sì, anche che fiorai hai scelto. No, ma è bello, interessante capirne di più. E come mai? È un particolare. Cioè, di solito sono i film, la musica e così via. Come mai l'albero della vita? Perché il matrimonio, quello, è un albero con le radici. Cioè, il matrimonio sono le radici del Potevi mettere l'albero azzurro. Con posto felice. Bravo, brava. Non c'hanno le radici quelle, l'albero azzurro. Come non hanno le radici? L'albero della vita c'è le radici. E l'albero azzurro no. non si vedono, no? Come non si vedono? Si immaginano, tutti i bambini usano. Si vedono. Si vede, vabbè, insomma, ho capito che, no, che non ci avevi alternative, ti è toccato scegliere quella. È chiarissimo. Bello comunque l'albero. E quindi scusa, il cioè i tavoli come si chiamano? Foglia? Muschio? Ci state lavorando. Ah, bello. Perché sono un po' bruttini, no? No, allora tipo betulla, ma è più bello. Magnolia è bello, suona bene. E quanto tempo vi rimane per organizzare il tutto? 24 giorni. 23, amica, è passata la mezzanotte. Brava, mi piace che lei porta sfiga fino in fondo. Cioè, nel senso, lei è il, come dire, è tipo il gatto nero che no, è il commercialista, quello che ti ricorda, devi pagare le tasse, ti sta scadendo, ti sta scadendo questo, ricordati l'altro. È spinosa, eh. Brava, ti tiene, come dire, ti tiene sotto torchio. Perché io non, cioè, non voglio mettere il dito nella piaga, però 23 giorni non aver ancora organizzato i tavoli, diciamo che bisogna un attimino accelerare, o no? Ma se mi sono le risposte agli invitati, cioè. Ancora non c'è risposta agli invitati. No, quindi agli invitati all'ascolto, fateci sapere. Vengo io se vuoi, cioè se ti serve gente vengo io, però io voglio essere nel pioppo. A me piace il pioppo come immagine. Inseriamo il pioppo allora. Il pioppo è bello, cioè anche perché proprio pioppo, vedi che pioppo. Non ti viene voglia di saltellare dicendo pioppo. Avrai un tavolino piccolo tutto per te. Sì, pioppo, all'angolo, pioppo. Bello, mi piace. Allora ragazze, volete dire qualcosa? Volete mandare un messaggio? Dai, salutiamo lo sposo. Che sta lavorando. Che lavoro fa? Vigilante notturno. Urca, bello. Guarda la giornata notturna. No, bello, vabbè, bello perché di responsabilità, brutto perché comunque gli orari sono particolari, insomma è complicato, è come noi, gente. Brava della notte. Che ha fatto scegliere tutto a me. Sì? Certo. Diciamo che tu, fai tu. Neanche il tuo vestito. Beh, a me va bene tutto. Si mangia, sì. Si beve, sì. Si dorme, sì. Bella, allora grande, bella festa. Più o meno è andata così. Bella festa, benissimo così. Ok. E allora, visto che non volete mandare un messaggio, lo mando io in questi secondi, perché un'altra avventura importante di questa serata è stata la ricerca spasmodica di finanziamenti da parte della nostra Michela, che ci conferma che l'economia sta girando male, poco, o meglio sta girando poco. Spiega un po'. Tanti sorrisi, tanti abbracci, tanti baci, ma poi ma niente ciccia, niente sostanza. Niente sostanza, perché rimane ancora questa tradizione, questa bella tradizione di come dire, aiutare un po' gli sposi nell'organizzazione del matrimonio con offerte libere. Tra l'altro, diciamo che, come dicevamo prima, Michela ha degli elementi per aiutare, ecco, l'interesse nell'offrire, ma dicevi che è stata magra. Magrissima. Solo quando ho proposto il numero di telefono delle mie amiche abbiamo avuto una, vedi? Una 5 euro che vedi, però non poi poi ne avete dato chiaramente il numero di telefono. Non l'ha voluto dopo. Ah, non l'ha voluto? Madonna, è incredibile. Ci ha ripensato. Cioè l'unico hanno fenomeno. Poi. Simpatico. Bella però. Cioè. Odiosa ma bellissima come battuta. Quindi complimenti Michela, molto bella come battuta. E beh, particolare anche lui, nel senso che ha finanziato e non ha riscosso il premio. C'è chi gode così. Appunto, vabbè, prendo io anche il numero loro. Cioè nel senso, a sto punto, cioè non viene nessuno invitato, vengo io. Il numero non lo prendo, lo prendo io. E almeno, cioè insomma, diciamo che io approfitto degli errori altrui. Almeno almeno così, esatto, io mi inserisco al momento giusto, assolutamente sì. E quindi, ma tu cosa avevi intenzione di comprare con questi finanziamenti? Non avevi già finanziare la serata almeno. Ah, la serata. Non speravo niente di più, la serata, cioè. La serata, beh, insomma, diciamo che bene, sei, non hai pagato neanche l'aperitivo. Sei umile. Volevamo basso, Sì, sì, voli basso, ci sta questo tipo di atteggiamento. E stavo pensando cosa comprerai con 10 euro? La benzina per il ritorno? No, neanche, costa di più. Neanche il pieno posso fare. Neanche 10 pieni, quindi mi sa che non ce la fai. 10 no, il pieno non ci arrivi. Ci volevano 13 euro. Almeno, esatto, bravo, almeno 13. Niente, insomma, pensaci su. Intanto, ragazze, grazie per essere. Non vogliamo. Lui, secondo me, un cinquantino te lo mette giù, Così. Adesso guarda. Perché era lì, poi è passato qui, poi è passato. Cioè. C'è dell'interesse. E non guardava solo gli M&M's. Esatto, non guardava solo gli M&M's. Quindi fai un po' la buon viso cattivo gioco, come si dice. tu in cassa e poi saluti e baci. Cioè senza magari baci, solo saluti, solo saluti. Saluti e saluti. Saluti e saluti. Grazie mille a voi ragazze intanto, e un in bocca al lupo all'organizzazione tavoli della Michela, e un in bocca al lupo per la raccolta fondi. Quindi mi raccomando, se vedete un M&M's in giro con una cassetta che cerca soldi, è la Michela. Non, siate disponibili e soprattutto generosi, che è la cosa più importante. Telefonate, mandate SMS al 48550 per donare soldi al finanziamento del matrimonio della Michela. Grazie ragazze, buona serata. Grazie, ciao.